Le cose da fare sono tante, diverse, tutte molto interessanti. Abbiamo pensato che un 80esimo, insomma, meritasse un programma ricco. Sul 25 aprile, in particolare, segnalo la presenza sicuramente per le orazioni ufficiali di Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera. Ci abbiamo tenuto molto ad averlo con noi perché per Libera quest'anno è un anno importante anche per loro di anniversari tondi, e in realtà il discorso mafioso è un discorso profondamente fascista, quindi ci sembrava giusto dare spazio alla lotta quotidiana che viene fatta contro questa forma ancora di fascismo e di oppressione. Poi passerei direttamente al pomeriggio, dove in realtà possiamo sbizzarrirci come sempre. Segnalo la musica, che è sempre una parte molto rilevante del nostro programma. Siamo molto contenti, quest'anno avremo con noi le Primule Rosse da Torino, nonché gli Offlaga Disco Pax e i Meganoidi, quindi ci sarà, insomma, da divertirsi. Sullo stesso palco dove suoneranno, in realtà, come sempre, avremo la possibilità di ascoltare riflessioni, stimoli e anche inviti all'azione per il nostro presente e il nostro futuro. Quindi avremo con noi Nicola Borghetti, attore e regista bolognese, che ci fornirà la sua lettura del 25 aprile del 2025. Avremo rappresentanti del comitato per i sì ai referendum del prossimo giugno, anche questo è un'azione estremamente importante secondo noi, e sottolineo la presenza di Aldrea Boldrini del comitato per Federico Aldrovandi, anche in questo caso è un tristissimo anniversario, ma per noi era rilevantissimo dare spazio perché il potere poliziesco, la repressione non fanno parte del discorso antifascista. Sempre sull'onda della possibilità di resistere e di progettare una società diversa, mi piace anche ricordare il fatto che avremo con noi sia il 25 che il 26, in questo caso, Z con il loro lavoro dal titolo Facoltà di Resistenza. Il 25 le parole di diversi autori si dispiegheranno lungo tutto il percorso del memoriale, quindi faremo, diciamo, il percorso quello più lungo da 6 chilometri, mentre il 26 l'azione teatrale si svolgerà tra la Scuola di Pace e San Martino, un po' abbordabile per chi, insomma, non se la sente di camminare. E poi ci hanno mostre fotografiche presenti per tutti e tre i giorni, e ci sarà la possibilità di giocare con questo laboratorio dedicato a bambini e adulti, i giochi di testarlo, che ci piace moltissimo. E poi segnalo anche, e questa volta sul 26, un paio di iniziative, perché abbiamo pensato che fosse anche necessario, vista la domanda che ci viene fatta continuamente: ma a 80 anni di distanza come si fa a insegnare resistenza? Ecco, abbiamo chiamato Vanessa Roghi, storica e scrittrice, e proveremo a ragionare con lei su questa domanda abbastanza cruciale. E poi sempre sul 26 segnalo, visto che non si tratta solo di insegnare ai giovani, ma in realtà i giovani, o cosiddetti tali, sono sempre una delle parti più attive della nostra società, mi piace sottolineare che la musica del 26 è a cura della Consulta per le politiche giovanili del Comune di Marzabotto, quindi hanno scelto e deciso tutto loro. Tanti linguaggi, quindi, dall'arte nelle sue varie forme alle riflessioni e altro ancora, per un programma molto ricco. Ti chiedo di ricordare, appunto, dove trovarlo. Lo trovate sia su Facebook che su Instagram, alle pagine 25 aprile Montessole percorsi antifascisti, nonché sui vari siti di tutte le organizzazioni coinvolte. Come sempre siamo tanti, e credo che questo sia anche bello da sottolineare, perché così come è stata un'azione corale e di comunità la resistenza alla dittatura fascista e all'occupazione nazista, è un lavoro corale e di comunità anche il suo ricordo, e quindi questo a me piace moltissimo.